Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. E allora i temi di questa giornata economico-finanziaria? Chiaramente la vicenda Fiat, già ricordava il nostro GR, colloquio oggi tra Marchionne e i vertici del governo tedesco, con l'apertura del ministro Guttenberg, che dice che il piano Fiat è interessante, prevede anche il mantenimento del marchio. È il ministro dell'economia Karl Theodor zu Guttenberg, è un piano interessante ma deve essere valorizzato. Che la borsa ci creda mi sembra evidente, o che creda comunque alla bontà dell'intera operazione Fiat Chrysler fino adesso, e vedremo se anche Fiat Opel, mi sembra evidente dal rialzo oggi del titolo, più 8,1% Fiat a 8,12 euro. Molto bene anche le CIR, più 13,8, Ubibanca più 8, Mondadori più 7,2, il Banco Popolare più 7, tornano gli acquisti di nuovo, si va verso l'ottava settimana consecutiva, Pirelli più 6,4, ST Microelectronics più 5,3, Tenaris più 5, Bulgari più 4,7, Monte dei Paschi più 4,4, ci fermiamo con il 4% di rialzo, Monte dei Paschi più 4,4 anch'essa, come Prysmian, Italcementi più 4. Di negativo c'è oggi solo A2A meno 1,8 e Lottomatica meno 0,3. Milano in questo modo è tra le migliori in una giornata in cui Londra è chiusa. Milano guadagna il 3,24% sull'S&P MIB, il 2,86 sul MIBTEL, Parigi più 2,5, Francoforte più 2,8. E l'America anch'essa forte, più 2,5% in questo momento il Dow Jones, più 2% il Nasdaq. In rafforzamento anche l'euro. L'euro è 1,34 quasi, 1,337 nei confronti del dollaro. Dicevamo vicenda Fiat, ma anche previsioni diffuse oggi dalla Commissione Europea, leggermente peggiori rispetto a quelle diffuse nel fine settimana dal nostro governo, dal nostro Ministero all'Economia. Ci sarebbe un meno 4,4% quest'anno nel, diciamo, crollo del PIL italiano. Però l'Unione Europea, seppur non con la stessa, diciamo, previsione del governo italiano, vede un più 0,1% nel 2010, il governo italiano ha detto più 0,3%. Anche di questo parleremo, perché lo stesso commissario europeo Almunia ha detto vabbè, la crisi è la crisi peggiore dal punto di vista dell'economia da quando, dalla seconda guerra mondiale, dal post, diciamo, dal secondo dopoguerra, però... abbiamo un processo di caduta che si è sostanzialmente fermato, cioè la caduta complessiva. La recessione è grave ma non è più in caduta libera, queste le parole esatte del commissario europeo agli affari economico monetari Joaquín Almunia. Anche di questo parleremo, e poi i dati sulle immatricolazioni auto attese per le 18, siamo anche in grado di anticiparli. Do l'ultima cifra e poi iniziamo con le notizie in breve: 349-238-6666, che è il numero, come sempre, per i vostri SMS. Sì, metteremo anche l'animale che a inizio settimana ci può stare, perché in effetti, vista la borsa, no, rispondo a alcuni sms già arrivati, vista l'andamento di borsa, diciamo che ci può stare tutto l'animale dei giorni positivi. Diamo però una notizia in anteprima, in esclusiva: usciranno tra poco meno di un'ora i dati sulle immatricolazioni auto nel mese di aprile, siamo in grado di anticiparle. È venuto meno, non so se si è perso completamente, l'effetto ecoincentivi, quello che portò il mese di marzo a fare un più 0,2% nelle immatricolazioni dopo i crolli del mese di febbraio e del mese di gennaio. Il dato di aprile, meno 7,5% l'andamento delle immatricolazioni auto in Italia, scese così rispetto a un anno fa a 188.406. come va il gruppo Fiat? Va bene, perché ha un segno meno, ma è la metà come calo rispetto alla media di mercato, perde il gruppo complessivamente il 3%. E la sua quota complessiva passa dal 33,6% al 35,3%, quindi ogni 100 auto immatricolate in Italia, l'anno scorso 33 erano del gruppo Fiat, quest'anno sono 35, Fiat come marchio perde il 3,9%, Alfa Romeo meglio, meno 2,2%, Lancia ancora meglio, più 1,5%. Siamo in grado di anticipare anche altri dati di altri marchi. Molto bene Ford, più 38% rispetto a un anno prima. Male Opel, visto che poi ne parleremo ampiamente, meno 12% le immatricolazioni ad aprile. Peugeot, meno 6%. Pesante il calo su Renault, meno 27,2%. E anche su Volkswagen, meno 14,2%. Questa è l'anticipazione che siamo in grado di darvi in esclusiva, poi ne riparleremo tra circa un'ora nella seconda parte del programma, quando avremo uno spazio dedicato sia alle immatricolazioni auto ma anche e soprattutto alle trattative scusatemi, in Germania tra Sergio Marchionne e il governo tedesco. Volete sapere anche di altri titoli? Sì, ci sono anche altri titoli che vanno parecchio bene, mi riferisco soprattutto ai bancari, ma anche agli energetici. Per esempio Saipem guadagna il 4,1%, Enel il 3,80%, Eni il 3%, Fondiaire guadagna il 3,5%, Autogrill guadagna il 3,3%, bene anche Unicredito più 2,90%, sta riconquistando l'euro per azione, i 2 euro per azione Unicredito, e così come Unipol più 2,90%, Alleanza più 2,7%, ripeto più 3,30% l'S&P MIB, e a questo punto va anche in positivo rispetto a inizio anno, visto che già con la scorsa settimana il MIB te l'ha chiuso con un più 0,6% l'S&P MIB era ancora leggermente negativo, ma con la giornata di oggi anche l'S&P MIB da inizio anno guadagna qualcosa, e allora gallo sia. Eh sì, il gufo per ora è in vacanza, speriamo che ci resti a lungo. Ripartiamo con le altre notizie. Dall'America qualche scricchiolio è arrivato dopo gli stress test, i test di carico sulle banche americane. Perché? Perché sia Bank of America che Citigroup starebbero studiando una ricapitalizzazione complessiva da 10 miliardi di dollari, perché le conclusioni a cui è giunto lo stress sono molto pessimistiche per i due gruppi bancari, soprattutto sulla solidità patrimoniale. Comunque si tratta di indiscrezioni, lo ha scritto oggi il Financial Times Online, l'esito ufficiale di questi test arriverà infatti solo giovedì. Di Sergio Marchionne a Berlino, abbiamo detto, intorno a mezzogiorno ha incontrato il ministro dell'economia tedesco Gutenberg. La proposta di Fiat per Opel, da quello che si è capito, vale 750 milioni di euro di investimento diretto, con l'ipotesi del cosiddetto spin-off, ossia scorporare tutta la parte auto del gruppo Fiat, che a quel punto vuol dire Fiat Auto, con i marchi anche Lancia e Alfa Romeo, ma a questo punto Chrysler con i suoi marchi Jeep e non solo, e se dovesse andare in porto l'operazione Opel, anche la Opel con Vauxhall e Saab, una società che a quel punto stiamo ragionando come ipotesi, visto che 2 milioni e 100 mila vetture è quanto producono ogni anno i tre marchi, ognuna chiaramente, cioè in tutto fanno 6 milioni e 300 mila vetture, sarebbe un gruppo da 6 milioni e 300 mila vetture. Obiettivo che a suo tempo già ipotizzò, ventilò anni fa Gianni Agnelli. Questa società verrebbe poi quotata in borsa, avrebbe un fatturato da 80 miliardi di euro. Ricordo che resta però sul piatto anche l'altra offerta, quella del gruppo di componentistica austriaco-canadese Magna, assieme al produttore di auto russo Gaz, disposti a offrire fino a 5 miliardi di euro. La cifra sembra un po' alta a tutti, però vedremo, tra l'altro con un'ipotesi di un po' meno credibile, non vogliamo essere partigiani dal punto di vista industriale, tra l'altro Opel ha già chiesto al governo tedesco aiuti per 3 miliardi di euro. E oggi si è saputo che Il piano comunque della Fiat per un'eventuale acquisizione della Opel prevederebbe anche garanzie statali a livello europeo per circa 5 miliardi o forse 7 miliardi di euro. Il taglio di un solo impianto produttivo dei 4 impianti produttivi in Germania, e ancora prevederebbe anche il mantenimento del marchio Opel. Il ministro degli esteri tedesco e vice cancelliere Steinmeier ha detto tutti gli impianti Opel in Germania devono essere mantenuti, e questo e chi punta a acquisire la nuova società deve specificare dove sarà la sede della nuova società. Questo perché l'IG Metall, che è diciamo il sindacato metalmeccanico più pesante, più importante in Germania, continua a essere molto molto scettico, per usare un eufemismo, con l'ipotesi Fiat Auto. Perché? Perché oggi uno dei membri del Consiglio di Sorveglianza, Armin Schild, sindacalista della IG Metall, ha detto anche Torino avrebbe problemi da questa fusione. A questo punto le decisioni per la Opel sarebbero prese non più a Detroit ma a Torino, e non sicuramente in Germania. Insomma, tutto un insieme di dubbi che ancora vengono avanzati dai sindacati. E oggi Marchionne ha incontrato, oltre che Gutenberg, anche il ministro degli esteri Steinmeier e il capo del consiglio di fabbrica dell'Opel, che è Klaus Franz. Ripeto, di questo parleremo più avanti. Adesso il primo tema, ancora due notizie in breve. Prezzi della produzione industriale in calo a marzo, meno 3,9% rispetto all'anno prima, meno 0,6% sul mese. E poi quanto oggi trovate sul Sole 24 Ore, se ne è occupato anche il nostro GR Extra Large alle 13, ossia quanto cambiano i prezzi della pasta, del pane, della benzina, dei servizi a seconda delle varie regioni italiane, dei vari dove uno ha la fortuna o la sfortuna di abitare. Vi consiglio l'articolo del Sole 24 Ore del lunedì. Rimini, la città dove per riempire il carrello della spesa si spende di più, 4.127 euro in un anno, il valore medio. A Napoli 1.000 euro in meno, cioè 3.000 euro per la stessa spesa in un anno. Differenze tra un chilo di pane sulla Riviera Romagnola vale circa 3,75 euro, a Napoli 1,94 euro. Insomma, ci sono 6 città nel nord, ben 6 emiliano-romagnole. Nei primi 15 posti, la maggior parte delle città più care sono, delle prime 15, sono tutte nel nord. C'è qualche sorpresa nella parte bassa della classifica, quella dove costa meno fare la spesa. Ci sono anche alcune città toscane come Siena, Firenze, Grosseto, o centri di confine come Como, Gorizia e Trieste. E poi da lì anche l'ipotesi di Renato Brunetta di avanzare l'idea delle gabbie salariali, molto molto scettico il sindacato. Gabbie salariali vuol dire redditi collegati al costo della vita effettiva in quelle aree geografiche. Adesso però, dopo aver fatto sentire il gallo e aver ricordato che il 349-238-6666 è il numero per i vostri sms, partiamo con il primo tema, le previsioni economiche diffuse come ogni primavera dalla Commissione Europea. Allora, c'è un fronte nero, nerissimo, che riguarda il 2009, dice Bruxelles, il PIL crollerà del 4% in media nell'area euro e resterà sotto lo zero anche nel 2010, meno 0,1. I casi peggiori, l'Irlanda, dove è proprio un tracollo, meno 9%, la Germania, meno 5,5%, Finlandia, meno 4,7%, Italia, meno 4,4%, un po' meglio Spagna, meno 3%, come la Francia, meno 3%. Tant'è che Almunia, commissario degli affari economici europei, dice la peggior recessione dal dopoguerra, ma nel 2010 ci sarà una leggera ripresa, e aggiunge la recessione è grave ma non è più in caduta libera. Ecco perché oggi Almunia non si becca il nostro gufo. Ascoltiamo questo passaggio. Lo scenario presentato oggi è ancora fosco, ma per la prima volta da metà 2007 si intravedono dei segnali positivi che puntano verso la stabilizzazione dell'economia nella seconda parte dell'anno e verso una graduale ripresa nel 2010. Spero che questa sia l'ultima revisione al ribasso che facciamo e che la prossima volta si proceda a un rialzo delle stime. Ciò non è ancora possibile, ma non siamo più in caduta libera. Anche in presenza di segnali positivi, però, non si può ancora dire che stiamo uscendo dalla crisi. Spero di poterlo affermare nei prossimi mesi. Le previsioni che ho presentato mostrano che l'economia europea è nel mezzo di una grave e profonda recessione, ma allo stesso tempo le misure ambiziose prese dai governi e dalle banche centrali porteranno a una stabilizzazione dell'attività economica quest'anno e a una ripresa il prossimo. Dobbiamo lavorare in modo coordinato sia a livello globale che europeo per essere sicuri che lo scenario di ripresa graduale nel 2010 possa materializzarsi. È necessario prendere ulteriori misure per stabilizzare i mercati e in particolare per ripulire i bilanci delle banche, ricapitalizzarle quando è necessario e ristabilire il flusso del credito nella nostra economia. E appunto questo accenno al fatto che la recessione sia grave ma non è più in caduta libera evita ad Almunia, non so quanto gliene possa fregare, ma insomma il nostro gufo. Invece ringrazio per averci raggiunto in collegamento da un lato il corrispondente Sole 24 Ore da Bruxelles, Enrico Brivio, buonasera. Buonasera. E dall'altro Mario De Aglio, docente di Economia Internazionale all'Università di Torino, editorialista della Stampa, buonasera anche lei professore. Buonasera. Io lo ricordo ogni volta, il primo nostro ospite che nell'agosto del 2007 capì la gravità della crisi bancaria e poi finanziaria che si stava scatenando con i mutui subprime. Il primo a dirci nemmeno le banche sanno quanta roba tossica hanno in portafoglio. Quindi non è sicuramente un ottimista di così, uno che edulcora le cose per natura. Enrico Brivio, quanto preoccupata è Bruxelles? Poi arriviamo all'analisi di De Aglio che ci porterà anche a parlare di Fiat più avanti. Quanto è un po' cerchio bottista questo Almunia, la crisi è grave ma non è più in caduta libera, non è più seria, no? Dimmi. Quando gli è stato posto giusto questa domanda, vi ho ricordato che comunque avevano appena rivisto al ribasso di 2 punti le stime, prevedendo un calo del 4% dell'economia europea quest'anno, quindi non si può dire che vi sia un eccesso di ottimismo, però al tempo stesso Almunia ha riconosciuto che ci sono dei segnali di... ci lasciano intendere che non c'è più in caduta libera, come giustamente dicevi, che comunque le misure intraprese dai governi e dalle banche centrali sembrano ora contribuito a rallentare la recessione. Ci sono qua e là affiora qualche segnale di speranza, per cui insomma Almunia giustifica così la previsione poi per un 2010 di stagnazione, cioè pensando che insomma il 2009 sia l'anno peggiore a causa soprattutto dell'ultimo trimestre del 2008, del primo 2009, che sono stati veramente devastanti, il periodo peggiore, sì. Ecco, c'è una cosa però, la stessa Commissione Europea nelle stime fornite a gennaio, quindi parliamo di 4 mesi fa scarsi, aveva detto meno 2% nel 2009 più 0,3% nel 2010, adesso ha raddoppiato le stime negative. Ora, questo sembra un po' in controtendenza con un'Almunia che cerca di dire, Enrico, ma la situazione alla fine è grave ma non è più in caduta libera, cioè c'è qualche prospettiva di miglioramento, cioè c'è qualche prospettiva di miglioramento, ma intanto tu raddoppi in senso negativo le tue stime di recessione. Sì, sì, chiaramente c'è anche l'esigenza di non allarmare più del dovuto, insomma, l'opinione pubblica, innescando magari fenomeni psicologici ancora più nefasti di quelli che si sono attivati. Però diciamo era comunque una previsione di stagnazione per il 2010 legata a molte condizioni, cioè a uno smaltimento dei titoli tossici da parte delle banche, una ripulitura dei bilanci, un intervento appropriato insomma dei governi a sostegno delle banche, una ripresa globale, anche che sia in Cina sia in altre zone del mondo, si rimetta in moto rispetto appunto alla recessione globale che c'è in questo momento. Allora, ricordavo prima che invece nel fine settimana sono arrivate le nuove stime del governo italiano nella relazione unificata, leggermente migliori. Devo dire, stiamo parlando di qualche decimale, cioè il governo prevede un meno 4,2 invece che un meno 4,4 quest'anno e un più 0,3 invece che un più 0,1 l'anno prossimo. Stiamo ragionando veramente di una differenza inesistente, anche perché più 0,1 più 0,3 vuol dire comunque stagnazione economica, e meno 4,2 o meno 4,4 vuol dire profonda recessione. Nel ringraziare Enrico Brivio, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, vorrei capire dal professor De Aglio, che ripeto non è un ottimista, una persona che così addolcisce i concetti per natura, perché lei in realtà ritiene che questa volta sia Bruxelles essere troppo pessimista. Ma io trovo un certo senso di insoddisfazione di fronte a dichiarazioni come quella di Almunia. Almunia tra l'altro è uno dei pochi politici che capiscono di economia, ma poi cerca sempre di aggiustare tutto, non dà ragione a nessuno, e quindi quello che produce è largamente aria fritta. Quello che succede è che se noi facciamo le previsioni dall'alto, cioè prendendo dei modelli a livello nazionale e infilando dentro come punto di partenza le previsioni degli Stati Uniti e della Germania, arriviamo sempre a questi risultati qui. Se invece proviamo a farle dal basso, cioè andare a prendere le prospettive dei settori, prendendo almeno i principali, allora troviamo dei dati che sembrano essere migliori, sia per quanto riguarda... Migliori per quanto riguarda l'edilizia americana, migliori per quanto riguarda le vendite di auto in Europa, migliori un po' dappertutto, insomma. Quindi direi che invece di un meno 4 siamo fermi al meno 2 di prima. Il fatto è che i modelli che hanno a Bruxelles, come ci sono in molti posti, non sono, e Almunia questo l'ha detto quando ha detto ci auguriamo di fare delle previsioni migliori in futuro, non sono in realtà delle previsioni, come dice il termine inglese, sono delle proiezioni. In realtà non hanno dentro un segnalatore di inversione di tendenza e quindi si limitano a registrare la velocità alla quale stiamo andando al momento. Beh, interessante che lei, ripeto, non è uno che ama addolcire le cose, ritenga questa volta, cioè faccia la parte dell'ottimista, perché se ho ben capito, se uno guarda le previsioni macro dall'alto verso il basso, lei dice vabbè, arriva sempre un meno 4 quest'anno, ma se guardiamo l'andamento dei singoli settori produttivi, invece dovremmo ritenere che ce la potremmo cavare con un meno 2%, che non sarebbe poco, cioè vorrebbe dire una recessione dimezzata rispetto alle stime di oggi. ...17:37 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, alcuni messaggi arrivati al 349-238-6666. Ma perché non dite che comunque se si passa da recessione a stagnazione c'è una crescita, è anche consistente? No, l'abbiamo detto, tant'è che Almunia non si è beccato il gufo. Dopodiché, secondo il professor De Aglio, che adesso invito anche a spiegarci come mai ci possono essere due visioni così diverse sulle prospettive economiche, se si guardano i singoli settori industriali, i loro rapporti al dato complessivo, addirittura invece che un meno 4,4 è più probabile che chiuderemo l'anno con un meno 2%. Professore, com'è possibile avere Bruxelles e anche il governo dicono meno 4 quest'anno, più 0,1, più 0,3 l'anno prossimo, quindi stagnazione, e invece lei dice no, l'economia tra virgolette reale sta andando meglio di quanto non leggano le istituzioni nazionali o comunitarie? Ma perché io credo che funzioni così, che i modelli che partono dall'alto danno largo spazio al credito. E quindi, essendo il settore creditizio in cattive acque, tendono a valutare molto la difficoltà di intermediazione, quindi la difficoltà che le imprese trovino effettivamente il credito. I modelli che partono dal basso, invece, partono dalle condizioni di mercato. E le condizioni di mercato che si sono registrate a partire da marzo sono nettamente migliori, quindi se si proiettano quelle in avanti e si considera che il credito sia stabile, cosa che tutto sommato non è ingiustificata, visto che poi i governi devono intervenire al puntello delle banche e dell'economia, allora questa seconda visione meno pessimistica, torno a dire, non c'è nessun ottimismo di lungo periodo, ma nei mesi che verranno dovremo avere sicuramente un rimbalzo. Del resto rimbalzi di questo genere sono tipici delle situazioni di crisi stagnazione, insomma. Ci sono state 500.000 di auto non vendute in Italia da settembre a marzo, è possibile che una parte di queste venga poi venduta nei mesi successivi, quindi da marzo a settembre almeno, quindi questo cambia un poco le prospettive dell'anno. Io penso che nessuno ha la certezza, tutti hanno sbagliato in vario modo con i modelli, ma che il motivo per cui i due modelli danno risultati così diversi sia appunto legato alla diversa valutazione del credito da una parte e del mercato finale dall'altra. Per cui di come poi concretamente le imprese possano eventualmente riuscire a trovare maggior credito in questi prossimi mesi, nonostante i problemi di chi il credito deve erogarlo o principalmente di chi deve erogarlo e quindi il mondo bancario. Adesso vorrei unirmi, proprio restando in tema di economia reale, all'altro grande tema della giornata, l'apertura delle trattative di Sergio Marchionne con la Opel. C'è chi l'ha chiamata in tutti i modi Super Marchionne. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one. Eh beh, quanto a sogno e orgoglio per riecheggiare i Queen, ci siamo, perché già l'operazione Chrysler porta complessivamente a 4 milioni e passa di vetture prodotte in un anno il gruppo Fiat Chrysler. Adesso si apre il fronte anche Opel. Ne parleremo ampiamente dei dettagli tecnici dell'operazione, i 750 milioni di euro che Fiat sembrerebbe disposto a offrire, molto di più apparentemente l'altra cordata, quella austro-canadese capeggiata da Magna, ma poi c'è dentro ci sono anche i russi di Gaz. Ma cosa vuol dire la rivincita del lavoro italiano, professor De Aglio, visto che questo è il titolo del suo pezzo di sabato sulla Stampa? Secondo me vuol dire questo, che le valutazioni di mercato di Fiat in questi anni non hanno tenuto conto del capitale tecnologico che Fiat ha accumulato e che stava accumulando. Siccome tutti parlano male della ricerca scientifica italiana e della ricerca tecnologica italiana, nessuno si è soffermato a dare un'occhiata seria, a vedere che i migliori motori del mondo continuiamo a farli noi e che questi motori del mondo potevano essere commercializzati molto meglio dopo che abbiamo regalato il Common Rail a Toyota e se abbiamo cominciato a fare le cose un po' meglio. Quindi gloria all'ingegner Rinaldo Rinolfi, vicepresidente Fiat Powertrain, l'inventore, papà del Common Rail, ma anche del Multijet e adesso del Multi-Air. È la rivincita anche della manifattura, dell'impresa italiana. Oggi ho letto varie interviste in cui si dice che questo è un modello che vince, non è solo la Fiat. Ma direi che la caratteristica positiva dell'impresa italiana, oltre a queste sorprese tecnologiche, è la sua flessibilità, cioè la capacità di reagire di solito prima delle imprese di altri paesi al cambiamento delle condizioni di mercato. In quello stesso articolo io ricordavo come nel 1973 a novembre ci fu la grande crisi, lo shock petrolifero, pochi mesi dopo i mobilieri della Brianza facevano i mobili in stile arabo perché i compratori di allora erano gli sceicchi. Ecco, questa capacità di adattarsi a condizioni diverse del mercato sembra essere molto più sviluppata in Italia che in altri paesi. Cioè, dal vecchio detto che quando c'è l'emergenza e la crisi noi ce la caviamo meglio degli altri, perché per noi sono quasi fisiologiche le emergenze, abbiamo più problemi a strutturare i periodi di medio-lungo termine. Vorrei però un suo commento complessivo, poi arriviamo alla borsa, visto che oggi la borsa ha premiato l'apertura del governo tedesco sulla vicenda Opel con un più 8% su Fiat, che chiude a 8,12 euro. Vorrei capire, al di là delle resistenze della Germania, IG Metall, quindi sindacato metalmeccanico tedesco, potentissimo, se in realtà, come alcuni hanno scritto, non si stia anche, Obama da un lato, e poi vedremo cosa succederà in Germania, non si stia rivalutando il modello renano, cioè una compartecipazione sindacale senza acquisizioni solo finanziarie, e cioè, tutta questa operazione al centro, come lei ricordava, ai motori, alla componentistica, non è finanza su finanza, come abbiamo visto fare invece, penso anche alla vicenda General Motors Fiat di qualche anno fa. Sì, io darei una parola di cautela su questa apertura. Se uno si legge bene i comunicati delle agenzie tedesche, in realtà il governo tedesco era molto preoccupato di disperdere una impressione di negatività nei confronti di Fiat dopo le malaccorte dichiarazioni di un commissario europeo tedesco che sembrava indicare una predisposizione anti-Fiat. Quindi, facendo questo, Fiat è messa sullo stesso piano degli altri e il governo si preoccupa di dire: attenzione, non è un concorrente di serie B. Di lì, attenzione ai media a non costruire troppo. La partita è apertissima e credo che si vada poi a giocare in buona parte, come si giocherebbe in Italia e come si giocherà forse anche qualche cosa in Italia, sulle proiezioni future di stabilimenti che si aprono, si chiudono, di posti di lavoro che restano, magari aumentano o trasmigrano da un paese all'altro. No, questo è certo, e penso che Beda Romano nella seconda ora del programma ci racconterà comunque quanto ancora in salita sia il percorso di Sergio Marchionne. Va detto che dal punto di vista industriale, per quel poco che abbiamo capito, l'ipotesi di un polo Fiat, Chrysler, Opel appare un po' più interessante di questa operazione con gli austro-canadesi e i russi, e che comunque prima o poi bisognerà ridurre il numero di marchi presenti in Europa. Comunque, grazie al professor De Aglio anche per la parte che riguardava, diciamo, la capacità italiana di adattarsi alle crisi. Adesso le informazioni per chi è in viaggio, e poi, partendo non tanto da Fiat ma dalla borsa, che complessivamente ha chiuso molto bene la prima seduta, più 3,2 il Mibtel, più 2,90% l'S&P MIB. Di nuovo in diretta, quindi, al di là di Fiat, di cui riparleremo ampiamente anche perché continuano ad arrivare dalla Germania molti dati. Abbiamo anticipato in esclusiva i dati sulle immatricolazioni di auto in Italia, in cui Fiat perde, ma perde la metà rispetto alla media complessiva, c'è un meno 6,7% di media complessiva e Fiat perde un meno 3,3%, vado a memoria, sì, meno 7,5%, scusatemi, Fiat perde un meno 3%, quindi meno della metà. Va anche fatto notare che la Tata Motors, casa automobilistica indiana, proprietaria anche della Jaguar, di Land Rover, però per la sua Nano, l'auto più economica al mondo, ha già ricevuto 200.000 ordini. La Nano costa pochissimo e tra l'altro gli ordini hanno un valore di quasi 25 milioni di rupie, cioè oltre 500 milioni di dollari per un'auto che costa 2.500 dollari. Anche questo è un segno dei tempi, così come la spinta di Obama a produrre auto più ecologiche, auto più verdi. Ci chiedete cosa sia il Multi-Air, ne parleremo, è il nuovo sistema di motore Fiat che, con un'alimentazione innovativa, permetterà, stando a quello che abbiamo capito, di aumentare del 10% la potenza, ridurre del 10% i consumi e soprattutto ridurre del 50% le emissioni di gas nocivi. Adesso però anche gli altri settori, e in particolar modo il recupero di tutti i bancari e energetici, e il caso CIR, più 14,7%. De Benedetti resterà presidente onorario sia di CIR che di Cofide, ma qui hanno giocato in positivo i conti. Chiedo conferma a Livia Zancaner di Radio Cori sulle 24 ore. Sì, buonasera. Allora, buonasera, sia CIR sia Cofide hanno beneficiato ancora dei conti trimestrali pubblicati la settimana scorsa, giovedì per la precisione. Allora, CIR ha guadagnato oltre il 68% dai minimi del 6 marzo e ha riportato nella prima parte dell'anno un risultato netto positivo per 19,5 milioni, in crescita cioè del 12,7% sul 2008 e comunque superiore all'attesa degli analisti. Cofide, che è la controllante di CIR, oggi ha guadagnato circa il 17,3% 18% e ha riportato un utile di 9,7 milioni nel primo trimestre 2009 dai 5,4 dello stesso periodo del 2008, e il mercato ha appunto premiato anche la proposta di Rodolfo De Benedetti di proclamare presidente onorario Carlo De Benedetti, che è il presidente uscente. Certo, infatti io non ho citato Cofide, che va benissimo, oggi è il secondo miglior titolo, più 17,2 dopo IT Way più 21,4. Il rialzo c'è, a questo punto anche l'S&P MIB da inizio anno in positivo. Chi l'avrebbe mai detto a gennaio e febbraio con i chiari di luna che andavamo a raccontare? Dopodiché avete ragione quando scrivete ai nostri messaggi che rispetto a inizio 2008 siamo ancora sotto di un 48%, 47%, siamo d'accordo, però insomma, non lamentiamoci sempre. Andiamo avanti con i titoli, bene le banche, Unicredito, c'è attesa chiaramente per gli stress test delle banche americane che verranno pubblicate giovedì, ma non solo Unicredito, UbiBanca più 7,8, il Banco Popolare più 6,3, e poi ancora Monte dei Paschi più 4%, Unipol più 3,1, e poi diciamo di Unicredito più 2,6%, Intesa più 1,5%. Sì, allora le banche a livello europeo oggi hanno guadagnato lo 0,7% circa, in attesa appunto della pubblicazione giovedì dei risultati di stress test sulle principali banche americane. Allora, a Milano, per quanto riguarda UbiBanca, allora le azioni del gruppo hanno accelerato sul finale senza particolari motivazioni, visto appunto che si è trattato di un rally dell'ultima parte della seduta, e bisogna dire che la banca comunicherà i conti il 13 maggio. Per quanto riguarda Unicredito invece, che ha sempre comunque sovraperformato il settore bancario, allora le azioni hanno risentito positivamente del giudizio di Bank of America, che ha alzato il prezzo obiettivo sul titolo da 1,30 a 2,10 euro, sulle aspettative che i prossimi conti mostrano un miglioramento della liquidità. Secondo gli esperti, infatti, che si aspetta un intervento del Fondo Monetario Internazionale nel centro-est Europa, dove Unicredito è particolarmente attiva, la società il 12 maggio comunicherà nel primo trimestre 2009 un utile netto intorno, comunque oltre i 400 milioni di euro. No, bene, molto bene, e dico perché alcuni dicono: ma insomma, dopo tutto questa parlare di crisi, adesso non c'è più la crisi. No, attenzione, io non vorrei che si vedesse sempre tutto quanto in bianco o in nero, in maniera molto manichea. La crisi c'è, ha fatto sentire il dato che abbiamo commentato in apertura di quanto crollerà il PIL europeo e anche quello italiano quest'anno, la dice lunga. La borsa, ripeto, per chi ha comprato inizio 2008 è ancora, quindi in un anno e mezzo scarso, è ancora sotto di un 45%. Altra cosa è dire che sembrano esserci segnali sempre più consistenti di una crisi che ha finito la sua caduta libera, da cui si può iniziare a ripartire. Vedremo con che velocità, vedremo con che intensità. Sono due cose un po' diverse, esistono anche i grigi nella vita, non solo i bianchi e i neri. Torniamo a palla con te invece, Livia. Bene anche oggi tutti gli energetici, anche se il petrolio alla fin fine resta inchiodato, per fortuna nostra, ai $50 al barile, 52 oggi per la precisione. Sì, allora, il rafforzamento del petrolio in realtà ha spinto dalle prime battute i titoli del comparto in tutta Europa, quindi a Milano l'Eni ha guadagnato circa il 2,9, Tenaris il 5,2%, è andato bene anche Saipem più 2% ed ERG circa più 1,62%. In realtà i prezzi del petrolio sono saliti durante la seduta ai massimi da 5 settimane a $53,71 al barile, e sono partiti al rialzo proprio sulle speranze di ripresa dell'economia americana e di conseguenza della domanda di energia. Tra gli energetici invece si sono mosse a due velocità Enel, che ha guadagnato il 4,2% circa, mentre Edison è stata penalizzata dalle vendite a fronte di un più 4,4% segnato giovedì grazie ai conti del primo trimestre 2009. E infatti l'abbiamo raccontato in diretta con l'amministratore delegato di Edison. Bene anche Autostrade, quindi che si chiama Atlantia, più 4,2%, riconquista i 14 euro. Bene anche Autostrade Torino-Milano, Fiat, sarà forse per l'aumento dei pedaggi che è scattato nel ponte più intenso degli ultimi mesi. immagino di sì, e noi comunque ringraziamo, cioè tutti quelli che erano in viaggio ringraziano, diciamo, la tempestività nell'aumento. Grazie a Livia Zancaner, Radio Core, Il Sole 24 Ore. Oggi deboli solo le cosiddette utilities, anzi una poi, A2A meno 1,5%. L'America continua a guadagnare il 2 adesso. Milano si conferma con l'S&P MIB la migliore, anche col MIBTEL, perché Parigi ha fatto più 2,5% e Francoforte più 2,8%. Londra era chiusa. L'euro è 1,336. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, dopo aver raccontato le nuove previsioni peggiorative dell'Unione Europea. Ripeto, meno 4% l'area euro, molto male l'Irlanda, meno 9, la Germania meno 5,5, l'Italia meno 4,4, abbastanza in linea con quanto già stimato dal governo nel fine settimana. E per aver anche ricordato che, secondo un economista come Mario De Aglio, i dati dell'economia reale sono migliori delle previsioni macroeconomiche diffuse dall'Europa. La borsa ha festeggiato oggi la prima seduta con un netto rialzo, soprattutto a Piazza Affari, più 3,2%, continua a essere positiva di 2 punti percentuali comunque l'America. Sul Dow Jones è l'1,6, sul Nasdaq. Abbiamo anche anticipato, direi unici, i dati di immatricolazioni auto nel mese di aprile, importanti visto che il tema più caldo dal punto di vista economico di questi giorni, resterà anche nei prossimi, è il tema Fiat, dopo il successo nell'accordo con Chrysler e ora il fronte Opel. Ripeto, mercato Italia meno 7,5%, Fiat meno 3% come gruppo, meno 3,9% come marchio, quindi meno della metà il calo di Fiat, e infatti la quota complessiva aumenta dal 33,7% di un anno fa al 35,3% di adesso. Bene, bene, molto bene. Ford più 38,2%, Opel invece frena parecchio, meno 12%, così come Peugeot meno 6% e soprattutto Renault meno 27,2%. Cala più della media anche Volkswagen, meno 14,2%, poi BMW meno 41%, Audi più 23%, Chrysler, che vende pochissimo, sono 121 auto ad aprile, comunque meno 67%. Ho dimenticato qualcosa, Mercedes meno 35% per la Mercedes e poi Toyota. Toyota fa un meno 50%, passa da 12.000 auto immatricolate ad aprile a 5.900 aprile 2008 a 5.900 immatricolate nell'aprile 2009. Ce n'è a sufficienza per parlarne come sempre una volta al mese con Gianprimo Quagliano, direttore del Centro Studi Promotor. Buonasera Gianprimo. Buonasera Sebastiano. Non ti chiederò delle trattative Fiat-Opel perché abbiamo tutta l'ultima parte del programma dedicata a questo. Faccio solo notare, e vorrei un tuo commento su questo, che molti dicono beh, ma insomma Fiat e Opel sono troppo sovrapponibili. C'è chi ha fatto notare che in realtà già Peugeot e Citroën sono due marchi identici come fascia di mercato, eppure il gruppo ha 3 milioni e 300.000 vetture immatricolate. Sei d'accordo? Beh, non è l'unico esempio che si può fare, perché anche il gruppo Volkswagen ha quattro marchi che si fanno ampiamente concorrenza, e anzi direi che questo è un elemento di forza per il gruppo, anche perché poi avendo vetture concorrenti si possono sviluppare delle belle sinergie sia sulle piattaforme che sulla distribuzione, quindi non mi pare che questa sia un'obiezione all'eventuale accordo Fiat-Opel. Allora, poi ne parleremo. Veniamo al dato che abbiamo anticipato circa un'ora fa. Sulle immatricolazioni si era detto a marzo finalmente entrano in vigore gli ecoincentivi, e infatti il mercato fece un più 0,1 dopo due mesi tremendi di crollo a due cifre nelle immatricolazioni, lo ricorderete. Adesso siamo tornati a un meno 7,5, no? Sì, siamo tornati a un meno 7,5, che è un po' sorprendente. Una parte della spiegazione sta, come sempre quando si cerca di giustificare un dato negativo, si va sempre a guardare il calendario, e in effetti il calendario un pochino aiuta a capire, perché c'è stato un giorno lavorativo in meno o due se si considerano anche i sabati, che per i concessionari sono giorni di apertura. E poi c'è stata la Pasqua, che è caduta quest'anno in aprile, l'anno scorso cadeva in marzo. Però al di là di questo, il motivo principale di questo calo è che gli incentivi riguardano solo una parte abbastanza contenuta delle vetture acquistabili, cioè circa il 23% dell'intera offerta. E questo ha fatto sì che la spinta degli incentivi si concentrasse su un numero abbastanza limitato di modelli e sono emersi dei problemi di fornitura da parte delle case. Quindi ci sono case che si impegnano a consegnare dopo l'estate sostanzialmente, quindi si è creata questa situazione che ha colto un po' tutti di sorpresa e che naturalmente non è particolarmente piacevole, insomma, non è quello che ci si attendeva. Ancora, tra i marchi, allora ci sono come sempre anno su anno variazioni magari significative, però Opel meno 12, di Fiat parliamo più avanti, insomma, il gruppo ha tenuto, perde meno della metà della media di mercato, per cui va bene. Insomma, Opel meno 12, Renault meno 27, Volkswagen meno 14, Toyota meno 50. Beh sì, qui dipende molto da come il gruppo considerato si pone in relazione agli incentivi, se ha delle vetture che possono beneficiare degli incentivi o meno. In particolare c'è una forte richiesta sul metano e sul GPL, non tutte le case hanno un'offerta di prodotti di questo tipo, anche perché poi gli incentivi riguardano solo gli incentivi più consistenti, le vetture che hanno metano e GPL omologato direttamente dalla casa, perché se invece è una trasformazione successiva all'acquisto c'è un incentivo molto più contenuto. E questo, e d'altra parte ci sono case che vengono premiate proprio perché hanno fatto una propria politica di incentivi, come Ford, che ha cominciato a fare degli incentivi in gennaio e recentemente li ha estesi a tutta la gamma e fa un bellissimo più 38,23 in aprile, quindi è una politica che evidentemente paga, cioè il mercato all'incentivazione risponde. E però non tutti sono in grado di offrire quello che il mercato richiede, sia pure con gli incentivi. Allora, adesso invece ti faccio una domanda che ci traghetta l'ultimo tema della puntata, la partita di Fiat su Opel. Chiede un ascoltatore, pochi istanti fa, al 349-238-6666, ma perché Volkswagen non interviene nella questione Opel e lascia il campo libero a Fiat o eventualmente all'ipotesi Magna più Gaz, cioè l'altra offerta? In effetti, voglio dire, non sappiamo che in Francia stanno ragionando su una manovra che a scacchi si chiamerebbe l'arrocco, per cui mettere dentro al gruppo PSA, Peugeot, Citroën, anche Renault e a quel punto blindare l'industria auto francese. Perché la Germania non fa lo stesso? Ma mi pare che sarebbe una logica assolutamente antistorica, perché Volkswagen è un grande gruppo mondiale, non può ragionare in un'ottica tedesca. In un'ottica tedesca si capisce che possono ragionare i sindacati tedeschi, che possono essere preoccupati dei posti di lavoro in alcune fabbriche piuttosto che in altri, ma un grande gruppo che sta sul mercato mondiale, secondo Marchionne nei prossimi anni non ce ne saranno molti a rimanerci, opera in una logica mondiale, quindi poco importa se questa vettura sia... Se questo marchio è in Germania o altrove, bisogna vedere se rientra nella strategia che in quel momento si persegue. Evidentemente Volkswagen non sta perseguendo in questo momento una strategia di crescita, anche perché ha già le dimensioni per rimanere il gruppo Volkswagen, per rimanere comunque sul mercato. Cioè non è lei una delle lepri che devono correre? Non è né una lepre, non è una preda, non pare essere neanche un predatore in questo momento. No, perché ha già delle dimensioni, tanto la previsione di Marchionne, ripresa da molti giornali in questi giorni, fatta un anno e mezzo fa, di 6 gruppi mondiali, si diceva 2 in Europa, 2 negli Stati Uniti, 1 in Giappone, forse un altro in Asia o 3 in Europa al massimo, come gruppi complessivamente. Grazie Gianprimo Quagliano, direttore del Centro Studi Promotor. Ultima parte del programma per parlare quindi del fronte europeo della Fiat, e il fronte europeo si chiama Opel. Abbiamo già detto che Sergio Marchionne da molte parti viene chiamato in tanti modi, viene chiamato come Super Marchionne, Superman. In realtà vedo anche alcune, giustamente, obiezioni, dubbi. C'è chi, come Massimo Mucchetti in questi giorni su Corriere della Sera, ha detto attenzione, insomma, già la Daimler mise in Chrysler una cifra spaventosa, alla fine 77 miliardi di dollari senza ottenere nulla. Insomma, è la sfida importante, è indubbio. Ed è però importante anche che si giochi più sul fronte della componentistica, dei motori, lo dicevamo prima, che sul fronte puramente finanziario, come fu GM, Fiat con l'opzione, dunque sto andando a memoria, del 2000, quindi 9 anni fa. Altri di voi dicono, ma insomma, attenzione, come farà la Fiat, soprattutto Marchionne ha molta fortuna. Beh, insomma, la bravura dei manager è anche sapere sfruttare i momenti di debolezza degli altri, i momenti di fortuna, infilarsi quando nelle situazioni critiche con risposte pronte, ecco perché poi questo Super Marchionne tutto sommato a noi piace. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance. Dicevamo prima, è un sogno, un obiettivo, una specie di magia. Oggettivamente, lasciatelo dire, visto che questo programma esiste da qualche anno, solo 4-5 anni fa ragionavamo del presto ponte delle banche, Capitalia, Intesa, Unicredito, Monte dei Paschi per salvare la Fiat, oltre 3 miliardi di euro, e adesso è la Fiat che va a salvare la Chrysler e forse anche la Opel. Forse però invitiamo sempre a essere cauti. Perché? Perché è vero che c'è stata un'apertura del governo tedesco. Oggi Marchionne ha incontrato alle 2, da mezzogiorno in poi, scusatemi, tutto un insieme di esponenti: il ministro dell'economia Gutenberg, il ministro agli esteri, nonché vice presidente del Consiglio, e il ministro degli esteri tedesco Steinmeier, e poi anche i vertici del sindacato. Beda Romano, corrispondente Sole 24 Ore da Francoforte, buonasera. Buonasera. Allora, molti gli incontri con appunto anche i vertici del sindacato tedesco, ma è il governo tedesco che dice in sostanza il piano interessante deve essere valorizzato. Beda. Sì, pronto. Sì, questa è un po' la situazione. La parola esatta è interessante, ha detto il Ministro dell'Economia, che è più o meno la stessa che aveva utilizzato la settimana scorsa parlando di Magna, che è l'altro concorrente per la fusione con Opel. Magna è una società austro-canadese che produce componenti per automobili. Però è evidente che Fiat ha fatto un passo in avanti oggi. Sergio Marchionne è venuto a Berlino, ha incontrato due ministri, ha incontrato anche il ministro alla cancelleria, Thomas de Maizière, che è probabilmente il più stretto collaboratore del cancelliere Merkel, e poi ha incontrato anche dei rappresentanti sindacali di Opel. E Sergio Marchionne ha presentato una prima bozza del piano industriale di una futura possibile alleanza con Opel, e ha messo il dito sulla piaga. Opel in questo momento ha circa 50.000 dipendenti, di cui 25.000 in Germania, ha 10 stabilimenti, di cui 4 in Germania, e ha spiegato ai propri interlocutori tedeschi che è pronto a tenere 3 dei 4 stabilimenti che Opel conta in questo paese, e possibile chiusura potrebbe essere proprio quello di Kaiserslautern, che è uno stabilimento che produce motori e che si trova nel sud della Germania. Allora, la reazione del Partito Socialdemocratico è stata molto netta. L'obiettivo del partito è quello di evitare la chiusura di qualsiasi stabilimento tedesco di Opel. Però, insomma, Marchionne ha spiegato, credo, molto chiaramente quali sono le possibilità in questo contesto, e credo che abbia giocato la carta della sincerità con i tedeschi. ha detto loro che la situazione economica e soprattutto la situazione economica del settore automobilistico europeo non permette di evitare alcune chiusure di stabilimenti. Vedremo nelle prossime settimane quale sarà la strategia di Sergio Marchionne per cercare di convincere del tutto l'establishment tedesco. Allora, fermo restando che prima abbiamo già risposto alla domanda che alcuni pongono, ma i due gruppi sono nello stesso segmento, non è un caso unico, pensate appunto a Citroën e Peugeot, ma non solo. E che in questo modo, se dovesse andare in porto l'operazione, i 2 milioni di auto Chrysler più 2 milioni e 100 di auto Fiat più 2 milioni e 100 di Opel permetterebbero di avere quella soglia, quel livello di 6 milioni di auto vendute all'anno che tutti ritengono come fondamentale per restare in vita nei prossimi 10 anni. Premesso questo, e premesso che Fiat ha un utile operativo, Opel ha una perdita di 2 miliardi e 2 e Chrysler di 1 miliardo e 7, vorrei capire quanto seria può essere l'altra ipotesi, l'altra offerta, quella di, del gruppo Magna, quindi austriaco, componentistica, più canadese, più forse i russi della GAZ, perché così loro sono disposti a offrire fino a 5 miliardi, le indiscrezioni dicono che Fiat al massimo offrirebbe fino a 750 milioni. Sì, c'è un altro aspetto, oggi il ministro dell'economia Gutenberg ha spiegato che Fiat vorrebbe dai governi europei tra i 5 e i 7 miliardi di garanzie pubbliche. Quindi sì. Fiat chiede denaro pubblico e apparentemente Magna e i suoi soci russi non chiedono soldi allo Stato, sono pronti a mettere soldi nella società. La domanda è qual è il futuro di questa cordata russo-austriaca-canadese? Sembra un po' giochi senza frontiere più che una cosa. Vabbè. Sì, è una cordata abbastanza sui generis. Il tentativo di Magna probabilmente è quello di avere dalla sua due soci ricchi, perché sono ricchi e liquidi, sia GAZ, che è una casa automobilistica russa, sia la banca Sberbank. Il punto è cercare di capire se questa cordata può avere successo. E l'impressione è che in questo momento i socialdemocratici e i sindacati stiano appoggiando questa cordata perché in teoria è una cordata che non dovrebbe provocare perdite di posti di lavoro in Germania, perché Magna produce componenti per automobili, non ha una propria casa automobilistica e quindi non dovrebbero esserci grossi problemi. Certo, mi chiedo se una parte dell'establishment tedesco possa essere felice di vedere Opel venduta a due soci russi, peraltro vicini al Cremlino. Tanto che una delle ipotesi che si stanno facendo in Germania è che in realtà dietro a Magna e dietro a questi due soci russi ci sia l'ex cancelliere Gerhard Schröder. Pensavo per dirtelo, quanto rapporti col Cremlino, insomma. Che in questi anni insomma ha coltivato molto i rapporti con la Russia ed è diventato un uomo d'affari. Staremo a vedere, io quello che noto, ma è chiaro che poi vengo accusato di partigianeria, è che tutti gli osservatori dicono che il mondo dell'auto deve andare verso dei conglomerati, in questo caso Opel correrebbe, ballerebbe un po' da sola, nel senso che resterebbe appunto, verrebbe salvata, quello che vuoi, ma resterebbe un marchio unico. Staremo a vedere, anche perché come oggi il ministro tedesco Steinmeier ha detto, la decisione sarà presa nelle prossime settimane. Ripeto, la borsa oggi festeggia con un rialzo dell'8% la vicenda Fiat. Grazie a Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti. Ed è veramente tutto per questa puntata. Un'ultima risposta, ma perché ci chiedete l'ultima parola non la deve avere General Motors? Beh sì, insomma, General Motors sta per chiedere il fallimento, ha già detto che lei la Opel la vende gratis, basta che qualcuno metta dentro 500 milioni di euro. Non ha più parole, è affona General Motors in questo momento. Da Sebastiano Barisoni lo auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.